是曹鄂音。 She, she, she, she. Pesce, pesce. Scimmia, scimmia. Sciatore, sciatore. Sciacallo, sciacallo. 练习 Scena, scena. Scheda, scheda. Biscia, biscia. Pesca, pesca. Scemo, scemo. Schermo, schermo. Liscia, liscia. Esca, esca. Uscita, uscita. Schifo, schifo. Ascia, ascia. Cassa, cassa. Pesci, pesci. Pesi, pesi. Scemi, scemi. Semi, semi. Scialle, scialle. Sale, sale. Una striscia d'acqua. Uno scialle rosso. Un asciugamano secco. Un cuscino sciupato. Una scena comica. Un uscio chiuso. Un bimbo sciocco. Un pesce nella vasca. La scherma e la sciabola. 谚语 Proverbi. Impara a vivere lo sciocco a sue spese, il savio a quelle altrui. Chi lascia la via vecchia per la nuova, sa quel che lascia, non sa quel che trova.